dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Siamo in diretta come sempre per raccontare la nostra Europa, l'Europa che va al di là della politica, dell'economia, dell'attualità che viene raccontata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche di proporvi altri punti di vista, partendo da quelli che sono gli spunti quotidiani, ma cerchiamo altre sfumature per raccontare questo percorso comune che si chiama Europa, un programma in collaborazione con Euronet Plus Network di radio europee, con questa missione, dar voce all'Europa. Le coordinate per trovarci anche sulle nostre piazze virtuali, Euronet Plus R24, oppure il mio account personale, Federico Taddia. Ci trovate sia su Twitter sia su Facebook, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo e che andiamo a toccare. Si parte, è stata una settimana intensa, una settimana al di là delle formalità, al di là delle celebrazioni, una settimana che dà il via a questo semestre dove l'Italia è protagonista. E partiamo proprio da qui, come sempre, da un viaggio che ci porta a Budapest. Sono cento i violoncelli, 100 violoncelli in questa contaminazione tra Italia, Ungheria ed Europa, 100 violoncelli che apriranno il semestre a guida italiana a Budapest, e questa sera con un concerto alle ore 20, un concerto organizzato dall'Ambasciata d'Italia, dall'Istituto Italiano di Cultura, un concerto che vede alla guida Giovanni Solima, che è qua con noi. Ciao Giovanni, benvenuto all'altra Europa. Ciao, buongiorno. Grazie per aver accettato questo invito, so che sono giornate di prove, vero? Sì, intensissime, sì. Un progetto, 100cellos.com, questo progetto che hai avviato da un po' di tempo. Siamo al terzo anno. Al terzo anno, esatto. Hai fatto questa particolare convocazione che ho visto sul sito, come sempre. Se avete voglia, se siete folli, se siete geniali, se state sapete anche solo strimpellare un po' un violoncello, sì. Venite, perché lì suona l'Europa. È un po' questa l'idea del concerto di questa sera. Sì. Sì, esattamente, quindi sono tanti significati, la prima cosa che mi viene in mente è l'incredibile range di età dai bambini, pronto? Sì, sì, pronto. Sì, dai bambini, dai più piccoli, dai bambini di 6-7 anni a quelli ormai che hanno ormai appeso al chiodo lo strumento e quindi dai professionisti agli amatori, a quelli che hanno appena iniziato, a quelli che entrano ed escono in qualche modo violoncellisti, entrano senza strumento ed escono con lo strumento. E quindi da questo si affrontano un sacco di tematiche, ovviamente passando sempre attraverso i suoni, che è la cosa più morbida, forse più naturale per noi, si fa rischiare meno di tanta retorica a volte che sono da parole, e quindi insomma l'energia è altissima, le culture che comunicano in qualche modo con un suono che ci unisce. Cos'altro dire? Insomma, stavo pensando, Giovanni, che la tua musica spesso è stata definita anche come un ponte tra Oriente e Occidente. E questa volta vai al di là, perché insomma questa contaminazione, questo incontro, le note per fortuna non conoscono confini, quindi evita la retorica proprio partendo da lì, vero? È diventato un fiume in piena con i 100 violoncelli, è una finestra aperta su tutto, su tutto. In questo caso l'Europa, ma con una serie di culture diverse che si intrecciano, e modi di suonare, di vedere, quindi i generi musicali sono mescolati ancora di più, è quasi impossibile andarli a distinguere uno per uno, e questa è la vera forza di questo grande ensemble. 100 sulla carta, probabilmente anche molti di più. In questa occasione è la prima volta che faccio una cosa, diciamo, tra virgolette, istituzionale. Noi che facciamo i flash mob per le strade o i programmi a sorpresa, certo. La musica senza spartiti, estemporanea, e quindi quello che si chiede è molta sì, fantasia, tanto amore, tanto coraggio anche, e non chiudersi dentro il proprio, no, la propria sfera di cristallo, che è un'arma a doppio taglio. Assolutamente. Quale repertorio hai scelto? Ma dunque, un po' di brani che vanno dall'antichità al rock, pensando molto all'Europa, ma non solo, poi c'è il repertorio fatto dagli inni stessi dei Cento Violoncelli, in qualche modo, che sarebbe per esempio l'Alleluia di Cohen o qualche cosa, non sono europei, ma in realtà fanno parte della nostra, dei Cento Violoncelli, insomma, della nostra, un po' della nostra storia, siamo nati così, e quindi portiamo anche questo repertorio, è molto vasto. C'è dentro anche qualcosa di più, come dire, sublime, per esempio l'Allegretto della Settima Sinfonia di Beethoven, che è un pezzo non cupo, anzi pieno di luce, però è anche nostalgico, è anche però un invito a riflettere. Un momento di riflessione c'è, perché pensavo che l'Europa adesso nel suo turno di presidenza forse può affrontare in modo creativo e geniale un problema che io e anche noi sentiamo molto forte. Io, essendo siciliano, ho la notizia fresca delle navi dell'orrore, di questa cosa, direi basta a questo, sì invece a un'Italia che affronti seriamente questo problema, questo dramma, assolutamente questo dramma, e quindi insomma questo c'è anche un momento di riflessione. Poi ci saranno anche dei cantanti, abbiamo il Salila che canta tre brani, abbiamo anche, ho portato con me due musicisti dalla Taranta, dal Salento, e quindi porteremo un po' di energia, poi abbiamo, faremo alzare il pubblico e danzare, insomma, ecco l'Europa, sì. L'Europa della cultura, l'Europa che si fa ascoltare, l'Europa che della contaminazione, sì. Dell'incontro, sì. Della fusione, esatto, tutto questo a Budapest questa sera dalle ore 20 sul sagrato della Basilica di Santo Stefano, quindi proprio nel cuore della città. Centocellos.com il sito per essere aggiornati su tutto il progetto. Grazie davvero Giovanni, complimenti, in bocca al lupo per grazie questa sera. Ciao, buon sabato. Ciao. Adesso un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europostit. Tirocinio come mediatore europeo a Strasburgo e Bruxelles. Se siete laureati in giurisprudenza, conoscete francese ed inglese e siete in cerca di un'esperienza internazionale, questo tirocinio vi offre una grande possibilità. Il mediatore europeo, l'ente che gestisce contenziosi che coinvolgono istituzioni e organismi dell'Unione Europea, offre a laureati la possibilità di svolgere tirocini dai 4 agli 11-12 mesi presso le sedi di Strasburgo e Bruxelles. Per gli stagisti è previsto un contributo economico. Per partire il prossimo gennaio è necessario fare domanda entro il 31 agosto. Trovate informazioni e modalità sul sito ombudsman.europa.eu nella sezione Assunzioni. L'altra Europa. It's a place where young people frequently go to escape the prying eyes of their parents. But what happens when the playground atmosphere of the internet turns ugly? Si chiama HIAN, l'European Anti-Bullying Network, è nato il 13 giugno, è nata ufficialmente la rete europea anti-bullismo, di cui fanno parte 17 organizzazioni, 4 di esse sono italiane, una rete che ha fortemente voluto la Commissione europea per affrontare quello che è un problema reale, un problema anche questo che non conosce confini. Un sondaggio mostra che più della metà dei bambini che hanno subito bullismo in età scolastica sono entrati in depressione, un terzo di essi ha affermato di aver compiuto atti di autolesionismo, di aver pensato addirittura al suicidio. Questi sono alcuni dei dati su un sondaggio effettuato su 2000 bambini in tutta Europa, un problema reale, un problema concreto, e questa rete dovrebbe essere operativa proprio per intervenire in maniera competente, in maniera puntuale. Di tutto questo ne parliamo con Maria Rita Bracchini, che è vicepresidente della Rete Europea contro il Bullismo e responsabile dei progetti europei del Centro Studi Villa Montesca, città di Castello, siamo in provincia di Perugia. Buongiorno Maria Rita, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E una scelta forte la nascita di questa rete, e per non stare più a guardare, giusto? Giusto. La rete, che come diceva giustamente, coinvolge 13 paesi europei, è una rete voluta dalla Commissione, è una rete che è nata dopo un lavoro che le organizzazioni fondatrici della rete portano avanti in sinergia da almeno 2 anni, ma tutte le organizzazioni lavorano su queste tematiche da molti anni. È un lavoro che ha voluto mettere insieme le legislazioni e le politiche nazionali degli Stati membri sul tema del bullismo, un lavoro che ha voluto analizzare le buone pratiche e creare una guida alle buone pratiche, un lavoro che ha cercato di fare sistema in mezzo ad un marasma di progetti, di iniziative molto interessanti ma anche molto localizzate. La rete vorrebbe raccogliere quello che di buono è fatto e cercare di trasferire le pratiche positive a livello globale, a livello europeo. Certo, perché è un po' questo, nel senso che quando si pensa a strategie europee, subito la tendenza è quello che dire, vabbè, le solite belle parole, poi dopo poi esatto. In classe chi entra? E invece questa rete cerca proprio di far circolare quelle che sono strategie sperimentate, quelle che sono buone pratiche, un po' questa è la parola chiave, che vuol dire mettere in circolo i progetti che funzionano di fatto. Assolutamente sì, non solo. Noi come primo lavoro adesso stiamo preparando delle raccomandazioni per la Commissione e stiamo raccogliendo anche le firme, è una raccolta virtuale di firme per istituire la giornata europea contro il bullismo. Qualcuno ci ha detto anche ma è una giornata simbolica, non vuole essere solo una giornata simbolica, è una giornata che vuole rafforzare e concentrare le iniziative antibullismo nei diversi paesi. Tra l'altro, se mi posso permettere, vorrei invitare gli ascoltatori a sostenere la petizione, a firmare per istituire la giornata europea antibullismo. È possibile farlo direttamente dal sito della rete, che è www.antibullying.eu/it per la traduzione in italiano. Perfetto. E noi abbiamo già raccolto 15.000 firme, le sottoporremo alla commissaria Reding insieme alle raccomandazioni vorremmo proporre alla commissione. La rete ha sede a Bruxelles perché la rete vuole stare vicino alle istituzioni ma continuare a lavorare nei territori. Per questo un altro degli obiettivi primari della rete appena costituita è quella di espandere la propria rappresentatività anche negli altri Stati membri dell'Unione Europea. Per adesso siamo 13, ma vorremmo poi coprire tutti gli Stati membri dell'Unione. Certo. Benissimo, guarda, grazie davvero intanto per averci raccontato in sintesi questa rete appena nata, ma ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, magari con l'apertura dell'anno scolastico, per capire in concreto cosa si può fare insieme contro il bullismo in Europa. Volentieri. Grazie davvero, buon sabato e buon lavoro. Grazie, buon sabato e buon lavoro anche a lei. Europost-it. Progettazione europea, a luglio una summer school. Cos'è un bando europeo? Quali sono le metodologie migliori per approcciarsi alla progettazione europea? Come si costruisce un partenariato? Sono tra i temi principali che verranno affrontati nel corso della Summer School in Progettazione Europea, promossa dall'Associazione TIA Formazione Internazionale in collaborazione con il Dipartimento Politiche Europee a Ficulla in provincia di Terni dal 18 al 20 luglio. L'iniziativa intende fornire risposte concrete a chi vorrebbe avvicinarsi al mondo della progettazione europea, con un focus particolare sui programmi Europe for Citizens, Creative Europe e Erasmus+, relativi al settennato 2014-2020. Sono inoltre previste esercitazioni pratiche relative alla ricerca e alla scrittura dei bandi. Tutti i partecipanti alla Summer School saranno affiancati nella redazione di progetti che verteranno sui bandi analizzati per i 6 mesi successivi alla conclusione del corso. La registrazione alla Summer School è aperta fino al 15 luglio. Per saperne di più, andate sul sito tiaformazione.org e cercate Summer School. What if we transformed waste into gold? And what if extracting natural resources, transforming them into finished products, and throwing them away afterwards was no longer the normal path to follow? This is rubbish and now becomes gold. And what if the path became a circle? A cycle that generated profit. Well, we think it's a fantastic business. Il 2 luglio la Commissione Europea ha pubblicato i nuovi obiettivi sui rifiuti e il riciclaggio come parte dei suoi sforzi per spostare l'Unione Europea verso un'economia circolare. È un po' questa la parola chiave. Economia circolare, un concetto innovativo che si basa su di un'economia che ottimizzi il flusso di beni e di servizi per ottenere il massimo delle materie prime e ridurre i rifiuti a un minimo assoluto. L'economia circolare quindi come alternativa, come proposta concreta per cambiare un po' le cose. Di tutto questo ne parliamo con il nostro ospite. Diamo il benvenuto a Giulio Rombardo, presidente di Remo Italia, che è un sistema di certificazione della filiera di riciclaggio, e nessuno credo meglio di lui ci possa spiegare cosa sia appunto questa economia circolare e perché da questa nuova economia può passare un pezzo della futura Europa. Buongiorno Giulio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno, eccoci qua, salve. Che cos'è di fatto, di concreto, in concreto, questa economia circolare? Il concetto di economia circolare si contrappone al giorno d'oggi, è una valida alternativa a quella che è l'economia lineare, cioè ogni prodotto di consumo ovviamente può essere destinato alla fine del suo ciclo di vita ad essere trasformato in rifiuto e quindi ad avere ovviamente un impatto per quelle che sono tutte le problematiche che conosciamo sulla gestione poi dei rifiuti e del loro impatto ambientale, oppure essere riutilizzato e quindi riciclato, rigenerato e conseguentemente tornare ad essere materia prima. Il concetto di economia circolare quindi è un concetto che parte da un capo d'abbigliamento che in teoria dovrebbe finire il suo ciclo di vita e ne rifà invece il punto d'inizio di un nuovo ciclo che porta poi a riutilizzare di nuovo il prodotto o quel capo, nel caso mi permetterete la pratese, parlo molto di abbigliamento, ma è destinato ad essere applicato a tutti i prodotti di consumo in genere. Certo, e la Commissione Europea adesso con questo documento ha anche fissato degli obiettivi ambiziosi. Gli Stati membri sono invitati a riciclare il 70% dei rifiuti urbani, l'80% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, poi tanti altri numeri dove l'asticella per fortuna viene alzata sempre di più. Ovviamente serve anche un cambiamento culturale. Voi a Prato avete fatto e avete messo in atto delle esperienze concrete di economia circolare, vero? Ma diciamo che Prato in generale è una città che oramai da oltre 3 secoli fonda il suo successo su quello che è il prodotto rigenerato, cioè del riutilizzo in generale dei capi di abbigliamento per rifare appunto materia prima e conseguentemente rifare tessuti. A Prato abbiamo pensato a un progetto molto concreto che è nato per la verità in Olanda e quindi abbiamo diciamo pensato che Prato potesse essere la culla naturale del concetto di economia circolare legata al mondo del tessile abbigliamento, appunto con il progetto Remo. Progetto Remo che ha contaminazioni europee, appunto è nato in Olanda e voi l'avete fatto vostro a Prato. Un progetto come il vostro cosa può insegnare al resto d'Europa che tutto ciò è fattibile? Quali sono le strategie, quali sono i punti chiave su cui lavorare per arrivare veramente a essere incisivi? Guardi, il progetto Remo, mi consenta una piccola diciamo così, curiosità, nasce dall'idea di questo Martin Avi, che tra l'altro era un gregario di Francesco Moser, ha vinto anche il Giro d'Italia, e quindi è una persona che nonostante fosse olandese era molto legato all'Italia. Ha pensato al progetto Remo e noi l'abbiamo accolto e poi sviluppato appunto come parte operativa in Italia, perché ha lanciato proprio la sfida di non avere più un impatto ovviamente sull'ambiente dovuto a quelli che sono appunto la trasformazione in rifiuto dei capi d'abbigliamento, ma arrivano a Prato in questo caso i capi che vengono raccolti o dalle aziende, tipo ovviamente i brand dell'abbigliamento, che come vedranno i consumatori spesso chiedono, dando anche un piccolo contributo, di riportare appunto i capi in negozio, tornano a Prato. A Prato c'è tutta la tecnologia e tutto il know-how per ritrasformare questa materia questi capi in fibra, in materia prima, li ritrasformiamo poi in filo, di nuovo in tessuto e conseguentemente in capi. Questo è il concetto di economia circolare. Ci abbiamo agganciato Remo come sistema di garanzia che traccia proprio con un sistema di track and trace tutta la filiera, perché oggi alla fine il brand sul mercato, ma anche i consumatori sempre più sensibili, vogliono vedere chi ha lavorato la materia prima, quindi concetto di trasparenza, e non solo. Il grande vantaggio di Remo è che in funzione della materia prima riciclata, rigenerata, che uso rispetto a quella nuova che avrei dovuto prendere da una pecora, o da un campo, se parlo di cotone, il sistema misura il risparmio, quindi l'impatto minore che ho sull'ambiente in termini di acqua, anidride carbonica ed energia. Quindi si va in un'ottica che è quella oggi della sostenibilità anche del pianeta. E la Commissione europea nel proporre i nuovi obiettivi ha anche dato un numero, 580.000 nuovi posti di lavoro legati al conseguimento dei nuovi obiettivi in materia di rifiuti. Quindi tutto ciò porta anche lavoro. Sì, assolutamente, sono concetti, quello diremo in primis, ma tutti concetti legati alla sostenibilità che ovviamente noi sposiamo, caldeggiamo e quindi accogliamo con favore questa iniziativa della Comunità Europea di divulgare il concetto di economia circolare, che creano lavoro, perché alla fine nel momento in cui io devo riprendere dei beni di consumo, ritrasformarli, ecco, il processo di trasformazione ovviamente implica il coinvolgere una catena manifatturiera e conseguentemente una serie di aziende che legate fra loro mi consentono non solo di riavere la materia prima in generale, ma poi di rifare prodotti. Joinremo.com è il sito ufficiale. Grazie davvero a Giulio Lombardo, presidente di Remo Italia. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Adesso un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Share Europe, condividete l'Europa con un click. Share Europe, scambieuropei.info, è una community online dedicata alla mobilità europea e in special modo agli italiani che si muovono in Europa. Su Share Europe si possono condividere esperienze e informazioni utili su come trovare alloggio o come organizzarsi per il lavoro all'estero, ma non solo. Ora sul sito si vuole dare un volto agli oltre 94.000 espatriati, allestendo il loro album fotografico di famiglia. Anche voi siete all'estero? Inviate tramite Instagram, Twitter, Flickr o Facebook una vostra foto nella città dove vi trovate, indicando il nome e quello della città di adozione, aggiungendo l'hashtag #ShareEurope. Per vedere tutti i volti e caricare il proprio, andate su shareeurope.com. L'altra Europa. C'est toi qui nous as dit de venir. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Le coordinate Euronet Plus R24, Federico Taddia, il mio account personale, ci trovate su Twitter, ci trovate su Facebook, l'Europa della cultura, che per noi è colonna portante di questo percorso. Quello che avete appena ascoltato, le parole, le sonorità, arrivano direttamente dal Mad Film Festival. Questo era l'audio di Hesten Boys di Robin Campion, il film francese che chiuderà il festival l'11 luglio. Questo festival dal 4 all'11 luglio al Maxi, al Museo Nazionale delle Arti di Roma, un appuntamento ormai basilare dell'estate romana. L'idea è quella di proporre il dialogo interculturale attraverso il cinema di qualità, per parlare dell'Europa che è, per parlare dell'Europa nuova, per parlare dell'Europa che dovrebbe, che potrebbe essere. Di tutto questo ne parliamo con Ginella Vocca, che è presidente di Mad Film Festival. Ciao Ginella, ben ritrovata qui all'Altra Europa. Ben trovati. Un programma ricchissimo, un programma appunto che guarda anche alla nuova Europa, magari ci spieghi in che modo. Cosa vuol dire oggi raccontare l'Europa attraverso il cinema? Guarda, è un bellissimo viaggio, è un grande stimolo, perché attraverso il cinema si vedono molte più cose naturalmente che attraverso una cronaca giornalistica o altro, e si parla di un'Europa in grandissimo, in forte cambiamento proprio nel suo dal suo interno, a parte nuovi paesi che stanno entrando, l'anno scorso la Croazia che è stato nostro paese ospite d'onore, sì. E questo desiderio di un'Europa politica, di un'Europa che parli ai suoi cittadini e si rispecchi nei suoi cittadini, e la cultura in questo senso è fondamentale, la strada maestra per creare una identità, sia pure multiforme e straordinariamente ricca proprio per la multiforme, per i colori, per le differenze che ne fanno uno dei luoghi più ricchi del pianeta. Mm-hmm. E è una come in natura la biodiversità è fondamentale per le sopravvivenze delle specie, è lo stesso fenomeno accade per quel che riguarda la cultura. Mm-hmm. E poi è il grande schermo dove l'Europa viene narrata, viene raccontata poi attraverso le storie, attraverso le persone, attraverso trame che trovano energia, trovano cibo e nutrimento dalla quotidianità. È un po' questa ovviamente la forza del cinema. Il cinema ci fa entrare nella vita delle persone, nei sentimenti e nelle storie degli altri, ed è un modo diretto per entrare anche in rapporto con noi stessi, per comprendere, decodificare, metabolizzare fenomeni come quello dell'immigrazione, come quello della crisi economica. Forse perché è il mio strumento, però di interpretazione, la mia lente per vedere il mondo, però anche un cortometraggio può raccontarti molto più che innumerevoli statistiche o convegni o su temi specifici. Certo. Ginella, è ampio spazio quest'anno viene dato alla Romania, come mai questa scelta? Guarda, quest'anno noi abbiamo cercato, è la 20ª edizione, per cui abbiamo cercato di raccontare la gioia di 20 anni di lavoro per il nostro festival, e abbiamo cercato di raccogliere e portare in questa edizione speciale gli amici storici del festival, e anche la Romania è un amico storico del festival. 3 anni fa noi abbiamo un paese della sponda nord che rappresenta l'Europa e un paese della sponda sud che racconta le cinematografie ricchissime dell'area mediterranea. E 3 anni fa la Romania è stato il paese ospite d'onore per la sponda nord. Da allora si è iniziato questo rapporto di collaborazione con le istituzioni italiane e anche col Ministero della Cultura rumeno, per cui tutti gli anni noi abbiamo una presenza di cinema rumeno nella nostra selezione, e anche quest'anno la loro ci sono con tanti film, in particolare con numerosi cortometraggi, un bellissimo film, l'ultimo di Marian Crisian, e Rocker e documentari. Perché? Perché è un cinema bellissimo, un cinema in forte crescita, un cinema molto interessante che sta vincendo a man bassa, nel 2007 la Palma d'Oro a Cannes, nel 2013 l'Orso d'Oro, insomma è un cinema che va visto, è un cinema che non si vede, perché noi parliamo tanto di un cinema mediterraneo poco conosciuto, ma noi sappiamo pochissimo anche del cinema europeo. E questo secondo me è un grave danno proprio per la nostra crescita culturale. Assolutamente. Un depauperamento, diciamo così. Ginella, un ultimo aspetto è quello legato, e spesso ci torniamo, no? L'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, in questo caso anche l'Europa dei fondi che vengono messi a disposizione per delle coproduzioni europee. E di questo ne parlate molto, di quello che è anche il sostegno dell'Europa al cinema, giusto? Guarda, Media, Eurimage, Euromed, ci sono tanti strumenti. Diciamo che quest'anno, un po' per scelta geografica, abbiamo più che altro tracciato un percorso con film prodotti grazie a Euromed Audiovisual. È strano, quest'anno è molto evidente un fenomeno però, e cioè che i paesi del sud, del Mediterraneo, si stanno molto più autoproducendo di prima. Okay. Quindi c'è come un po' un chiudersi nella propria casa, no? A parte alcune coproduzioni importantissime tra Belgio e Libano, piuttosto che, per carità, questo c'è, per fortuna questa dinamica c'è e persiste. Però abbiamo notato che moltissimo cinema che prima invece era coprodotto con la Francia o con la Germania è prodotto e coprodotto tra i paesi del Mediterraneo, moltissimo. Mm-hmm. C'è un ritorno, insomma. Sì, un po' a questo tipo di produzione. E Ginella, prima di salutarci, ci vuoi così mettere un paio di asterischi, un paio di post-it su quelli che sono secondo te appuntamenti? È veramente difficile perché considera che ci sono 87 film in veri e propri 7 giorni di proiezione, cioè da oggi fino al 10 saremo alla Casa del Cinema con un programma intensissimo. Per cui, beh, insomma, io voglio stressare l'aspetto positivo, nel senso meglio poter scegliere che no, in questo caso sarà un po' difficile scegliere, però vi parlo dell'appuntamento di questa sera, alle 20 daremo il premio alla carriera a Mario Marzone, perché l'Italia, un paese europeo, è il paese ospite d'onore di quest'anno, anche perché siamo una manifestazione ufficiale del semestre di presidenza, per cui ci piace moltissimo aver avuto questo riconoscimento, perché anche questo è un segno, no? di dove l'Italia vuole andare da un punto di vista progettuale, da un punto di vista culturale. Medfilmfestival.org, il sito ufficiale per conoscere l'intero programma. Ginella, grazie davvero, sarà una settimana intensa, sarà una settimana ricca, sarà una settimana di contaminazioni e quindi insomma l'Europa passa anche da lì. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Adesso un euro post-it e poi le informazioni per chi sta viaggiando. E poi in diretta avremo ospite l'ambasciatore Stefano Sannino, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles. Siamo molto orgogliosi di poter aprire a modo nostro il semestre europeo, appunto, chiacchierando con lui. Euro post-it. Going Abroad, un'app per chi viaggia. Siete in viaggio e vi chiedete qual è il limite di velocità nelle autostrade spagnole? Oppure se è obbligatorio il casco se si va in bicicletta in Svezia? Non cercate più su internet, guardate sulla nuova app per smartphone elaborata dalla Commissione Europea, che contiene tutti i regolamenti per i viaggiatori su strada nei paesi dell'Unione Europea. Trovate tutto, dal limite della quantità di alcol assunta per chi guida al comportamento ai semafori. Cercate sul vostro store online Going Abroad, oppure guardate la versione online su ec.europa.eu/transport/road safety/going abroad. L'altra Europa. L'Italia non viene qui per chiedere all'Europa i cambiamenti che lei non è in grado di fare. L'Italia viene qui a dire che lei per prima ha voglia di cambiare, che lei crede nelle istituzioni europee. E viene per dirlo con la convinzione e la determinazione, vorrei dire il coraggio e l'orgoglio di chi sa di rappresentare un grande paese che quando entra nelle istituzioni europee non va per chiedere ma va per dare. Sono le parole del Premier, le parole di Matteo Renzi che hanno aperto questo semestre. Ieri la Commissione Europea era a Roma, c'erano i rappresentanti per questo incontro. Ne stiamo parlando molto in queste settimane, cerchiamo di farlo anche al di là delle formalità, al di là di quelle che sono così le celebrazioni, le bandiere giuste, il cerimoniale, perché poi sono sei mesi concreti, sono sei mesi dove bisogna comunque dare una guida, sono sei mesi dove ci si mette in gioco, sono sei mesi anche dove crediamo che quello che è un po' il rapporto tra i cittadini e l'Europa, tra gli italiani e l'Europa, insomma, possa rinsaldarsi, no? Come sempre lo diciamo, al di là delle regole, al di là dei regolamenti, al di là di quello che è l'Europa della burocrazia, l'Europa del palazzo, perché poi c'è l'Europa dei cittadini, c'è l'Europa delle opportunità, c'è l'Europa delle possibilità, c'è l'Europa della quotidianità. Di questo semestre ne vogliamo parlare oggi, siamo molto felici di poter ospitare l'ambasciatore Stefano Sannino, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles. Buongiorno ambasciatore, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Complimenti intanto e in bocca al lupo e buon lavoro, perché credo che saranno sei mesi tosti anche per lei, vero? Assolutamente. Cerchiamo intanto, ambasciatore, di chiarire qual è il ruolo del rappresentante permanente presso l'Unione Europea. Beh, direi che sostanzialmente è un duplice ruolo. Da un lato deve assicurare il collegamento tra il governo italiano e le europee, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, dall'altro deve presiedere il Comitato dei rappresentanti permanenti, quindi degli ambasciatori dei 28 Stati membri, e con loro cercare di raggiungere il consenso sui dossier che vengono discussi settimanalmente. Ho capito. Quindi è un lavoro sia di preparazione, diciamo, sia anche postumo forse, nel senso che una volta prese quelle che sono le decisioni, poi sono da... mi viene a dire da far digerire, anche se forse non è un termine esatto. No, non direi da fare... C'è comunque sicuramente anche la necessità di fare in modo che poi le decisioni prese vengano effettivamente realizzate successivamente e gli impegni presi vengano rispettati. Quindi c'è un po' di tutto in questo lavoro, dalla rappresentanza politica, se vuole, a quella, la cosa più tipica, più classica, direi, del lavoro di un diplomatico, che è il negoziato. Certo, questo filo diretto, insomma, tra Roma e Bruxelles. E come sono stati questi primi giorni, al di là appunto di quello che abbiamo visto, un po' il suo polso, le sue impressioni, come si è aperto questo semestre? Abbastanza entusiasmanti da questo punto di vista, perché abbiamo un governo, un presidente del Consiglio che ha imposto un'accelerazione molto forte al dibattito sull'Europa. Presidente Renzi ha dato un segnale chiaro del fatto che si può essere europeisti ma non necessariamente accettare tutto quello che da Bruxelles viene, e saperlo discutere e mettere sul tavolo con apertura ma anche con fermezza. Per cui è stato un inizio abbastanza intenso, e sono convinto che seguiranno settimane e mesi altrettanto intensi. Prossimi appuntamenti, ci sono tappe chiave su quelle che sono le priorità? Abbiamo sentito tante parole in questi giorni, e un po' le sappiamo, perché c'è la crescita, perché c'è il lavoro, c'è il problema immigrazione che sicuramente sarà uno dei tasselli fondamentali di questo semestre. Quali sono i prossimi appuntamenti, quelli che lei ritiene comunque più importanti? Ah, diciamo, distinguerei da un lato il lavoro quotidiano che bisognerà fare per poter realizzare questi obiettivi, che appunto sono importanti e complessi e che richiedono quindi la capacità di creare un consenso adeguato intorno a delle proposte concrete, sia sui temi di crescita e occupazione che sui temi dell'immigrazione. Ci saranno nel corso della presidenza anche dei momenti importanti. I consigli europei sono sicuramente parte di questo processo, il momento in cui i capi di Stato e di Governo si confrontano su questi temi e concordano le azioni da svolgere. Ci saranno degli importanti momenti con i ministri dell'economia e delle finanze, a partire già dall'8 luglio, con le prime indicazioni che verranno dal ministro Padoan su come intende impostare il lavoro nei prossimi mesi. Ci saranno anche eventi, diciamo, con un profilo internazionale significativo, come ad esempio il vertice ASEM, cioè Asia-Europa, che si terrà a Milano in ottobre. Ambasciatore, lei dal 2010 al 2013 si è occupato della direzione generale allargamento, conosce bene l'Europa, credo sia anche una persona innamorata dell'Europa. Cosa vuol dire passare appunto a questo lavoro sull'allargamento, quindi la nuova Europa, l'altra Europa, queste nuove nazioni, poi ritrovarsi lì nel cuore d'Europa? Questa esperienza di questi 3 anni rivolta al di là dei confini dell'Europa, cosa le ha insegnato? Cosa le ha messo nel suo bagaglio che oggi può mettere invece a disposizione di questo semestre? Beh, intanto mi ha confermato il fatto che ci sono il potere di attrazione dell'Europa è ancora molto forte, e che ci sono una serie di paesi intorno all'Europa che guardano a noi con un'attenzione e con un interesse assolutamente unico, e sperano di poter far parte di questo enorme progetto che è la costruzione europea. Quello che ho portato con me di questo periodo, e devo dire di tutto il periodo anche precedente in cui ho lavorato alla Commissione europea, è il senso della volontà di costruire insieme e di saper superare gli steccati, le barriere i pregiudizi e i preconcetti. L'Europa è fatta di molte voci, di molte identità, di molte culture, e saper superare appunto il proprio piccolo feudo e guardare anche oltre, e saper inserire degli elementi da, anche da altre culture e da altre esperienze, è quello che credo sia l'elemento più arricchente europeo. Certamente è stato per me una cosa che anche personalmente mi ha arricchito e che cerco di introdurre quotidianamente nel mio lavoro. Un'ultima domanda, ambasciatore. Il premier Renzi ha detto appunto che se l'Europa oggi si facesse un selfie avrebbe il volto della noia. Condivide? È noiosa l'Europa? Certamente, come dire, l'Europa non è particolarmente divertente in questo periodo. Siamo passati attraverso una crisi molto difficile, molto dura. Le misure che sono state prese hanno avuto un impatto molto forte sulle nostre società. In alcuni paesi, e penso in particolare alla Grecia, hanno avuto degli effetti estremamente pesanti sui cittadini. È evidente che in questo momento, quando si guarda all'Europa, non si pensa più a quello che di positivo può apportare. Io credo che il messaggio del Presidente Renzi sia soprattutto quello di dire: facciamo in modo che i cittadini europei si riaffezionino all'Europa, pensino che l'Europa non è soltanto quella che porta le cattive notizie, ma che invece sia la struttura che sia in grado di portare buone notizie, risposte e soluzioni. Grazie davvero all'ambasciatore Stefano Sannino, rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea a Bruxelles. Ambasciatore, buon lavoro! Grazie, finito, ne ho molto bisogno. No, lo immagino, però insomma crediamo anche noi che insomma ci possa essere un'altra Europa più vicina ai cittadini, più comprensibile, più anche così un po' più divertente nel senso bello e ricco bello del termine. Grazie, esatto. Buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci, grazie a voi tutti. Europost-it. Progetto Leonardo per assistenza a disabili e anziani. Il CEIPES, Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e dello Sviluppo, promuove il progetto Training on Taking Care of People with Disabilities nell'ambito del programma LLP Lifelong Learning. Il centro mette a disposizione 14 borse di studio per giovani che intendano svolgere un periodo di tirocinio all'estero per fare formazione professionale, con lo scopo di lavorare con anziani e persone disabili, corsi utili anche dal punto di vista occupazionale. Nel progetto si affronta anche il tema dell'integrazione dei disabili e degli anziani nel contesto sociale del paese. I paesi di destinazione sono Germania, Portogallo, Spagna e Slovenia. Per candidarsi occorre avere non più di 30 anni ed avere una prima formazione nel campo dell'assistenza a disabili ed anziani. La borsa Leonardo copre viaggio, alloggio, formazione, corso di lingua e aiuto nel trovare lavoro in una struttura assistenziale. Per scaricare la domanda andate sul sito del CEIPES, ceipes.org. C'è tempo fino al 20 settembre. E con quest'ultimo Europost-it, che vi ricordo, tutti gli Europost-it li potete ritrovare sul nostro sito radio24.it, da dove potete anche riascoltare la puntata. Chiudiamo l'appuntamento di oggi. Un grazie a Margherita Aina, Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Nicolò Rossoni oggi in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica e voi, come sempre, in ascolto. Questa è la nostra squadra. L'appuntamento, come sempre, è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.